9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto, sempre con l'appello di Angelo che vi facciamo sentire tutte le mattine, che insomma continua a risuonarci nelle orecchie, e magari qualche accenno a questo naturalmente lo faremo nel corso di questa puntata. Oggi buttiamo gli occhi sulla punta orientale dell'Unione Europea, ossia su Cipro, dopo la decisione di quello che viene definito salvataggio, da alcuni viene messo tra virgolette, avvenuta nella notte di ieri sostanzialmente, insomma le notizie si sono avute ieri mattina. Un salvataggio che ha posto molti dubbi su come, ancora una volta, su come l'Unione Europea si comporta in questi casi, sulla tempestività, sulla capacità di comunicazione. Avremo ospiti, tra un attimo li saluterò, che sui temi più specifici, su come si è mossa Bruxelles, su come si sono mossi i capi di Stato e di Governo europei, sapranno essere più abili di me perché hanno più conoscenze di me, però mi soffermo quantomeno sulla comunicazione, che è il mio campo. Insomma, il caso umano del giorno mi sembra evidentemente il ministro delle finanze olandese, presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, laureato tra l'altro in economia dell'agricoltura. Non mi soffermo su battute sulle braccia strappate, e però è un uomo che ieri intorno alle 15 ha dichiarato che Cipro è un modello per il salvataggio dei paesi in difficoltà, o quantomeno dei paesi che hanno difficoltà dal lato delle banche, per poi correggere il tiro in serata, ma il danno evidentemente era già fatto. Si addensano molte preoccupazioni intorno a questa vicenda di Cipro, l'idea che magari tipi di intervento di questo genere appunto diventino un modello anche per paesi, altri paesi del sud Europa in difficoltà, due nomi a caso, la Spagna e l'Italia. Bruxelles oggettivamente si è mossa ancora una volta, non avendo imparato la lezione della Grecia, molto male. Nel frattempo arriva un'altra notizia, che la stessa Bruxelles mette dei paletti dopo la decisione, l'annuncio da parte del governo Monti che si sarebbe fatto qualcosa per i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, 20 miliardi quest'anno e 20 miliardi l'anno prossimo, arrivando ad un rapporto tra deficit e PIL al 2,9%. Insomma, hanno messo in allerta: occhio che siete ancora in procedura di deficit eccessivo, finché non ne uscite non è che potete giocare tanto con questi numeri. Quindi insomma, da questo lato si addensano preoccupazioni per come l'Europa si sta comportando, non sono le prime naturalmente, ci costringono anche a ripensare, no? Non lo stare, ma il nostro modo di stare in Europa. Poche parole si sono sentite da questo lato negli ultimi giorni in Italia, veramente poche a dire il vero. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. L'hashtag da oggi, abbiamo deciso di non utilizzare quello della trasmissione, ma di lanciarne uno ogni giorno. Ci dite: ah, ma poi uno si confonde. A noi interessa che si dibatta dell'argomento, che poi, se questo esonda dai confini della trasmissione, va benissimo. Io non sono euroscettico, sono sempre stato un euroentusiasta, però se devo essere governato da un euroscemo, forse cambio anche atteggiamento. E questo era un altro ascoltatore che abbiamo raccolto nei giorni scorsi. Mario Mauro, buongiorno. Buongiorno. Capogruppo di Scelta Civica al Senato, magari poi gli faremo anche una domanda politica prima delle 9:30, quando poi ci dovrà lasciare, ed è stato vicepresidente del Parlamento Europeo, è stato il capogruppo, o così possiamo definirlo, anche se forse il termine è diverso, del capodelegazione del Popolo della Libertà proprio al Parlamento Europeo, è stato appunto al Parlamento Europeo per molti anni. Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Luigi Casero, deputato del PDL, ex sottosegretario al Ministero dell'Economia nell'ultimo governo Berlusconi. Buongiorno anche a lei, Casero. Buongiorno. Mauro, inizierei da lei perché poi la persona ci deve lasciare prima. Ci aiuti a capire un po', innanzitutto, come la vede questa vicenda di Cipro. Io sono sinceramente molto colpito, per quanto conti la mia opinione, e sinceramente molto poco, però sono molto colpito dal fatto che dalla vicenda greca si è imparato molto poco. La gestione di tutta la vicenda di questo salvataggio è stata quantomeno confusa. Intanto la prima cosa da spiegare è il fatto anche politicamente più importante, è che non esiste un'Europa distaccata o aliena dal ruolo che gli Stati interpretano all'interno dell'Unione Europea, nel senso che c'è un gruppo di paesi che possiamo condensare, diciamo, attraverso la sigla della AAA, cioè di paesi che ormai da alcuni anni, sottolineo ogni più sospinto, e di fatto hanno costituito ostacolo a un rapido salvataggio della Grecia, proprio per sostenere i principi della loro filosofia, che un paese che viene a trovarsi per ragioni varie in difficoltà deve essere il primo a mostrarsi capace e quindi a pagare per superare quelle difficoltà. Su questo si è molto discusso, sia soprattutto in ambito di istituzioni europee, e per esempio un'istituzione come il Parlamento ha sempre parlato con chiarezza anche attraverso i propri gruppi politici all'unisono, gruppi sia di sinistra che di destra, che si sono rivolti ai propri governi sottolineando che un atteggiamento di tipo nazionalistico ci avrebbe portato prima alla confusione e poi all'autodistruzione. Ma sta di fatto che gli accordi negoziati volta per volta hanno visto esercitare a Finlandia, Germania, Olanda, Austria soprattutto, un ruolo di blocco rispetto a tempi e modi che fossero improntati più alla solidarietà e meno a quella che in gergo viene chiamata la stabilità. È stata questa una delle ragioni principali che hanno fatto nascere il mito del duo Mercosì e che hanno visto per un certo tempo la Francia, timorosa di vedersi rendere instabile il proprio debito, andare a rimorchio della posizione tenuta dalla cancelliera tedesca. Ora, in realtà, io ritengo riduttive anche le interpretazioni che vorrebbero le posizioni tedesche vincolate semplicemente allo svolgersi delle elezioni in Germania, anche perché queste posizioni durano da anni ed è difficile che uno pensi alle elezioni il primo giorno dopo l'inizio del suo mandato. La verità è che c'è dietro proprio un concetto di stabilità, un concetto di responsabilità profondamente differente, e ci siamo confrontati da tempo su un concetto base. Primo, i paesi del nord dell'Europa sono quelli che più hanno fatto riforme negli ultimi 20 anni e pretendono che gli altri paesi si allineino sui tempi e sui modi di queste riforme. Gli altri paesi hanno bisogno di più tempo per realizzare queste riforme e nel primo scontro soprattutto il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha pensato di poter chiudere la partita ricordando che il tempo è denaro. Ma è altrettanto vero che di tempo c'è assoluta necessità e nello stesso tempo, scusate il gioco di parole, il tempo è finito. Quindi noi ora ci troviamo in una circostanza epocale dove un di più di buona volontà è assolutamente necessario, pena l'implodere della costruzione europea da un lato e soprattutto il realizzarsi di un curioso scenario, vale a dire che non convincono forse tanto gli euroscettici, quanto il fatto che gli euroconvinti non sembrano abbastanza determinati e non sembrano avere ragioni sufficienti e buone per traghettare la costruzione europea verso lidi più certi. Mauro, detto però questo, io escluderei allo stesso tempo di poter inquadrare non solo l'Italia ma anche la stessa Spagna, diciamo in un'ottica di un paese per cui si rendono necessarie misure come il prelievo forzoso dai conti correnti, e direi che c'è anche molto di approssimativo e di speculativo su un approccio del genere. Ho capito che ce l'ha con me, però insomma, no, in realtà è quello che stanno facendo un po' tutti, insomma, perché la preoccupazione... No, non ce l'ho con lei perché non ritengo che lei sia la fonte di quel tipo di, diciamo, di notizie. La verità è che ci sono responsabilità e responsabilità molto in alto, perché arrivare a far passare, diciamo, a borse aperte diciamo informazioni di quel genere vuol dire proprio voler giocare al tirassegno con diciamo la stabilità dell'Eurozona, ecco, tutto qua, non ce l'ho assolutamente con lei. Allora, sentiamo. Normalmente voi giornalisti le notizie le riportate, qualcuno ve le attende, no? Del resto mica ho parlato io, ha parlato il ministro delle finanze olandese e presidente dell'Eurogruppo, quindi insomma non ci posso... Esattamente, quindi come visto, come vede, ho mirato un po' più in alto. Un po' più in alto, per fortuna. Francesco Boccia, lei come la vede da questo lato? Io lo ripeto ancora una volta, trovo delirante come è stata gestita la vicenda Cipro, cioè siamo usciti nemmeno una settimana, anzi 10 giorni fa per essere esatti, proprio per essere precisi coi tempi, siamo usciti 10 giorni fa con un tipo di soluzione che era già di per sé folle perché non tutelava i depositi sotto i 100.000 euro e, insomma, e piano piano ci siamo avvicinati ad un tipo di soluzione diversa. Là secondo me si innesta anche quello che dice Mauro, cioè anche gli euro entusiasti a questo punto, di fronte a comportamenti di questo genere, di fronte anche a quello che citavamo poco fa, insomma un'Europa che 2 giorni prima ti dice guarda, vai tranquillo, se ci sono provvedimenti per la crescita un po' dal deficit puoi sforare, e 2 giorni dopo ti dice no, guarda, lascia perdere perché sei ancora in procedura di deficit eccessivo. Insomma, si va un po' in confusione, insomma, anche tra gli euroentusiasti. Sì, indubbiamente è così, e più che confusione si indebolisce la forza sempre più relativa di coloro che provano a convincere tutti gli altri che l'unica strada che abbiamo di fronte è l'Europa. L'analisi che ha fatto Mauro non fa una grinza. Io ci aggiungerei purtroppo che è sempre più evidente che c'è una certa intransigenza che si incrocia con l'avvicinarsi delle elezioni tedesche. Speravo, mi auguravo che in qualche modo la forza politica italiana e francese potessero evitare che questa intransigenza si trasformasse in questi mesi in un ulteriore discredito, diciamo, dell'impalcatura del framework comunitario. Invece questa vicenda di Cipro purtroppo ci porta con le lancette e l'orologio indietro. Io sono molto preoccupato, guardi, perché come correttamente mi pare Quadrio Curzio oggi sulle pagine del Sole ha ricordato, se questo è un paradigma allora è una follia, e siccome tutto quello che è accaduto a Cipro era prevedibile, la responsabilità politica dell'Unione Europea deve farci riflettere e deve farci dire quali sono le responsabilità che tutti i Paesi membri hanno, e l'Italia da questo punto di vista, io penso che l'Europa abbia un maledetto bisogno dell'Italia. E siccome era prevedibile, perché Cipro va in crisi quando va in crisi Atene, perché il legame tra i due Paesi è un legame molto forte. Sì, come ricorda tra l'altro correttamente, scusi se la interrompo, come ricorda correttamente Quadrio Curzio proprio sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro nel 2011 Cipro ha ricevuto un prestito d'emergenza dalla Russia di 2,5 miliardi, quindi la situazione, insomma, era quantomeno prevedibile, quantomeno immaginabile. Era prevedibilissima, certo, era assolutamente prevedibile. A chi ci sta ascoltando ricordiamo poi tra l'altro che stiamo parlando di una vicenda che incide davvero in maniera relativa sull'economia europea. Stiamo parlando dello 0,06 del PIL e dell'1,1 del fondo salva stati. Proprio per questo non può essere un paradigma, e la follia con la quale è stata gestita questa vicenda sul piano politico interno deve imporre a tutti i gruppi parlamentari un unico comune denominatore: l'Italia deve avere al più presto un governo nel pieno delle sue funzioni, perché l'Europa ha bisogno di un'Italia forte. E detto questo, penso che non sia giustificabile il prelievo forzoso da nessun punto di vista, nemmeno dal punto di vista di chi, forse con un po' di cinismo, in queste ore dice: ma in fin dei conti la raccolta a Cipro, ci sono fasi che ha superato i 95 miliardi, 8 volte il PIL, e le risorse solo per un terzo erano dei residenti, due terzi in realtà sono risorse esterne che arrivavano a Cipro per sfuggire da varie economie domestiche, e si fa soprattutto riferimento all'economia russa. Ora, è evidente che questa giustificazione, che in qualche modo vorrebbe far passare la tesi che alla fine sono stati tassati soprattutto capitali russi, regge fino ad un certo punto, perché se il paradigma è quello non andiamo da nessuna parte. C'è un'evidente mancanza di politica in tutto questo, e questo deve farci preoccupare, però io la penso come Mauro: mai come in questo momento chi crede nella costruzione del progetto politico europeo deve farsi sentire e soprattutto deve dire parole chiare. E dall'Italia io penso che ci siano tutte le condizioni per far sì che questo accada. Brevemente con Luigi Casero del PDL, intanto vi segnalo ancora l'hashtag su Twitter che stiamo usando, Maledetta Europa. Sono contento perché temevo che avrebbe raccolto solamente euroscettici, mentre invece vedo anche delle belle riflessioni. C'è chi dice: o si fanno gli Stati Uniti d'Europa o si muore; chi ci dice che questa Europa sta implodendo e c'è un accanimento terapeutico degli eurocrati che non hanno umiltà per capire i propri errori. Però siamo a ridosso dell'appuntamento con la mezza, e Mario Mauro ci deve salutare. Prima di andare da Casero voglio fare una domanda a Mauro di questioni politiche, dato che Boccia anche tra l'altro introduceva l'argomento parlando della necessità di un governo. Mauro, io ho un po' l'impressione in queste ultime ore che si dia quasi per scontato il vostro appoggio, l'appoggio di Scelta Civica al Senato ad un eventuale governo Bersani. In realtà non è così. No, non è così, perché da parte nostra, e lo dimostra il fatto che siamo una forza che in campagna elettorale ha predicato e chiesto i voti agli italiani per imporre a PD e PDL una tregua ragionata sul futuro del paese, chiedendogli di distaccarsi da quelle forze che nelle loro coalizioni orientavano invece verso soluzioni anacronistiche. Noi crediamo fortemente che per il nostro paese rimanga una condizione di forte necessità di coesione nazionale, e lo pensiamo perché diciamo in questi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, quelli che dovevano essere i frutti migliori del bipolarismo e del confronto democratico, vale a dire la capacità di asciugare lo Stato e di restituire spessore ai tentativi che i cittadini fanno per rispondere ai propri bisogni, si è infranto contro un continuo aumento della spesa pubblica compensate con più tasse. Quindi il rigore italiano si è distinto in questo senso da quello europeo, perché alla fine è stato fatto non di più tagli ma di più tasse. E di fronte a questo, capendo che diciamo questo clima di guerra guerreggiata continuamente condito di invettive reciproche che ha avvelenato i pozzi della politica italiana negli ultimi anni, ha di fatto reso possibile poi procedere in modo coerente con delle riforme che hanno di fatto bisogno del contributo di tutti. Ci sono delle riforme che a maggioranza è molto difficile fare, e allora noi non proponiamo una sospensione della democrazia nel senso di sospendiamo la logica dell'alternanza democratica e mettiamoci tutti insieme appassionatamente, quanto piuttosto guardiamoci negli occhi e capiamo che in questo momento è la gente che ci chiede attraverso il voto espresso, un po' come a fronte di quella famosa nave alla deriva, quando un comandante si è rivolto all'altro dicendogli vada a bordo. Ecco, noi dobbiamo andare a bordo, governare la nave, farle riprendere il suo percorso naturale, e in questo senso quello che chiediamo al Partito Democratico e al segretario Bersani, presidente incaricato, è maggiore lungimiranza, perché quanto più largo potrà essere la forma di una coalizione, senza nulla voler togliere all'orientamento che il premier incaricato vorrà dare al proprio governo, e su questa base noi ci riserviamo ovviamente di poter solo sostenere un'ipotesi di governo che nasce, o eventualmente, se ci sono le condizioni anche in termini programmatiche, farne parte, ma tutto questo comunque è subordinato al fatto che ci sia un senso di responsabilità e una consapevolezza per cui l'altro non è, diciamo, quello da emarginare, ma è uno strumento attraverso il quale si realizza insieme il bene comune. Penso che sia questo il fondo del nostro ragionamento, e onestamente trovo per questo ragionamento grande riscontro con gli interlocutori, diciamo, della strada, perché in questo momento c'è veramente una forte percezione nella gente che l'Italia ha bisogno non di elezioni ma di azioni. Grazie Mario Mauro. Casero, non mi ammazzi, però se non mando l'appuntamento con la pubblicità adesso, insomma, se sforiamo troppo lontano, la faccio parlare subito dopo. 9 in punto. L'hashtag che abbiamo scelto oggi su Twitter: maledetta Europa, ci scrive Aldus65, maledetta Europa dei politici insulsi, benedetta Europa dei cittadini assennati. Barbara Martini dice: maledetta Europa, non sono euroscettica ma eurodelusa, ho vissuto il sogno andando all'estero nel 92, ci ho creduto, ora è difficile. Chiediamo a Stefano invece di smettere col complottismo. Stati Uniti d'Europa, un altro passo verso il nuovo ordine mondiale, per carità. Allora Casero, Luigi Casero del PDL, ci scusi per l'attesa, come la vedete voi? Beh, siamo molto preoccupati. Devo dire che in questi giorni, per chi è favorevolissimo agli Stati Uniti d'Europa, e noi lo siamo, si raggiungono pesanti delusioni. Guardate, cercando di essere molto sintetici, sta fallendo tutta la scelta di impostazione di politica economica dell'Europa per una serie di fattori. Il primo: è impossibile pensare di gestire la politica economica di una grande area come quella europea pensando alla politica monetaria. I padri della politica economica sanno che la politica monetaria è uno degli strumenti per cui si deve intervenire, non deve essere l'unico strumento, ma non deve essere neanche escluso questo strumento, e l'Europa sta rinunciando a utilizzare scelte di politica monetaria. In secondo luogo, una politica di spese di bilancio, in cui l'unica scelta di politica di bilancio che viene considerata è la scelta di taglio del debito e taglio del deficit. La politica economica la si fa utilizzando sia strumenti di debito, sia non utilizzando strumenti di debito. Purtroppo questa impostazione, che è diciamo tipica di alcuni economisti tedeschi e viene sposata dalla Germania per una serie di ragioni storiche, culturali, anche di convinzione, sta portando l'Europa a girare zoppa, cioè a girare senza due gambe su tre, e questo porta a una chiara, diciamo, crisi delle potenzialità di sviluppo economico. Primo tema. Secondo tema: se noi vogliamo sviluppare un'area, dobbiamo far sì che gli elementi di forza, gli elementi di debolezza di tutti i paesi dell'area vengano considerati. Anche in questo caso l'Europa è un'Europa strabica, è un'Europa che guarda solo al Baltico, è un'Europa che va avanti sentendo diciamo lo stimolo degli elettori tedeschi e degli elettori dei paesi satelliti, non guarda agli altri paesi. Non è possibile sviluppare l'Europa uccidendo prima la Grecia, poi Cipro, poi la Spagna, cioè i paesi che non la pensano come noi. O l'Europa va avanti unita, o se no l'Europa rischia veramente di deflagrare. Queste sono le grandi scelte che devono essere portate avanti dal nostro governo in Europa. Secondo me abbiamo perso del tempo, negli ultimi anni, siamo stati molto succubi ai paesi nordici e alla Germania, forse è giunto il momento di porre con forza questi elementi proprio per far sì che possa nascere una Europa unita. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Ambrogio ci chiama da Lodi, buongiorno. Buongiorno. Senta, io chiamo per raccontare una brevissima esperienza professionale. Io sono un direttore amministrativo finanziario di una società industriale, filiale di una società extraeuropea. Ieri sera ricevo dal centro della tesoreria centrale un'indicazione di questo genere, di muovere tutta la liquidità, attenzione, parliamo della liquidità, non degli investimenti del nostro paese, ma di muovere tutta la liquidità su banche non italiane, di tenerla su altri conti di altre banche e fuori dal paese. Questa è un'indicazione dal terreno vivo della realtà industriale di questi giorni, e questo sulla base, naturalmente motivata, sulla recente esperienza di Cipro. Visto quello successo a Cipro, ricevo questo tipo di indicazioni. Ha notizie anche da altri suoi colleghi ai quali siano successe cose di questo genere? Cioè, immagino qualche contatto professionale? No, perché è freschissima la cosa. Comunque, diciamo, così, questo è come ci vedono. Si discuteva prima di possibili valutazioni future dell'Italia come un paese con le stesse problematiche di Cipro, potenzialmente come Cipro. È già così. Il mondo industriale e finanza ha altre velocità, e noi sa quali sono i tempi che vediamo in questi giorni per la realizzazione di un governo e l'adozione di decisioni. Siamo su due pianeti diversi. Grazie Ambrogio, grazie per la testimonianza. Boccia, ecco qua, insomma, mi sembra che quasi non sia necessario commento al racconto di questo nostro ascoltatore. No, purtroppo non è nemmeno necessario un commento. È da alcuni mesi che, pur rischiando di passare per Cassandre, qualcuno ce l'ho anche detto, che ribadiamo il concetto che Ambrogio con grande chiarezza ha purtroppo testimoniato questa mattina. Quella è la liquidità di un'impresa. Si immagini le risorse di un qualsiasi fondo pensione, quindi non sto parlando di speculatori, ma di investitori istituzionali, che guardando la condizione dell'Italia ad un certo punto devono decidere se crederci ancora, sottoscrivendo titoli di Stato e quindi di fatto finanziando il nostro debito oppure no. Io però in questo momento, cogliendo anche l'occasione di questa conversazione con i suoi radioascoltatori, sento di trasferire in qualche modo tranquillità. L'Italia non è in quella condizione e non lo sarà mai. È evidente che può solo ricevere un danno dall'attuale quadro politico generale, perché abbiamo un paese diviso in tre blocchi che deve riunirsi nel più breve tempo possibile. C'è bisogno di comunicare all'esterno che il paese riparte, che si assume le proprie responsabilità, perché sia le imprese che gli investitori istituzionali devono sapere che investire sull'Italia e in Italia è sinonimo di tranquillità e di fiducia. Io non penso, come ho detto in apertura, che quello di Cipro possa essere un paradigma, perché significherebbe rompere tutto e distruggere la casa comune europea. Penso che gli effetti sociali di una cosa di questo tipo sarebbero inimmaginabili e incalcolabili. Quindi torniamo con i piedi per terra, assumiamoci le responsabilità che abbiamo il dovere di assumerci, e in questi giorni chi è in prima linea in Parlamento deve fino in fondo assumersi le proprie responsabilità. Poi nel paese io mi auguro che riparti almeno la fiducia nelle istituzioni, poi tutto il resto lo si costruisce a cascata, perché la delegittimazione collettiva che è stata oggetto in qualche modo della discussione tra politica e imprese da un lato e società e più in generale istituzioni dall'altro ci ha portato fin qui. Ci scrive Roberto Angioni su Twitter. Maledetta Europa è l'hashtag che abbiamo scelto. Non è l'Europa, sono i governanti europei inetti e idioti tutti quanti. Adesso forse non tutti quanti, però certo i problemi ci sono. Ci scrive un altro ascoltatore e questa è una buona domanda, perché poi anche questo dobbiamo chiederci: ma chi ha fatto entrare Cipro nell'Eurozona nel 2008? Anche di questo poi a un certo punto bisognerà ragionare. Il ragionamento probabilmente deve essere un po' più ampio, un po' complessivo. Giampiero ci chiama dalla Spezia, buongiorno. Io volevo intervenire perché sono 19 anni che io lavoro su Cipro, sì. E quest'anno sono stato trasferito dalla società che gestisce, diciamo, la società per cui lavoro, sono stato trasferito a Cipro proprio fisicamente. Quindi innanzitutto quello che ho sentito sono una marea di notizie non vere, ad esempio che Cipro sia un paradiso fiscale, non è vero. È semplicemente un paese a bassa fiscalità, ma la stessa cosa si può dire dell'Irlanda, del Lussemburgo, di Malta, persino della Danimarca. La Danimarca, nel settore in cui opero, per le holdings ha tassazione zero e lo pubblicizza da tutte le parti. Quindi quando si parla di Cipro come paradiso fiscale si dice una falsità. Non si è mai spiegato perché Cipro è piena di capitali russi per intero. Cipro è piena di capitali russi perché con la crisi della Russia nel 91 e la crisi del rublo nel 98, Cipro era uno dei soli tre paesi nell'area, diciamo, mediterranea europea che consentiva l'accesso a cittadini russi e ucraini senza visto. Gli altri due erano la Turchia e l'Egitto, quindi si è riempita di una marea di migranti, infatti sono circa 60.000 abitanti, quindi quasi un decimo della popolazione, che ovviamente andando giù si è portata dietro una certa parte di capitali. Non è vero che è piena di oligarchi, perché gli oligarchi sono tutti a Dubai, dove vado molto spesso per lavoro, sono a Londra, come si è visto con la morte l'altro ieri di Berezovsky, sono a Miami, sono a New York. Un oligarca a Cipro fa ridere, perché Cipro è un'isola di 140 chilometri di larghezza, si va in autostrada da una parte all'altra dell'isola in tre ore di auto, io non ce lo vedo l'oligarca. Ci sono una ventina di ville nella zona di Limassol che probabilmente valgono intorno ai 20 milioni di euro, ma saranno una ventina. Quindi tutto quello che è stato presentato sul discorso Cipro era veramente abbastanza falso. Grazie, grazie Giampiero per la sua testimonianza, importante anche questa. Una pausa per la viabilità. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. C'è un tema che finora non abbiamo toccato, ci siamo concentrati su Cipro, ma è quello che avevo annunciato all'inizio, un altro tema centrale secondo me, che è naturalmente il pagamento degli arretrati della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Come sapete, ieri ci sono state ancora una volta strane prese di posizione da Bruxelles, sempre un lanciare il sasso e poi tirare indietro la mano. No, non potete sbloccare questi soldi perché siete ancora in procedura per deficit eccessivo. Invece sì, li potete sbloccare, c'è flessibilità. Anche qua, Casero, grande confusione sotto il cielo. Lei pensa che nel caso l'Europa blocchi insomma questo flusso di denaro che deve arrivare alle nostre imprese, si debba procedere comunque eventualmente in violazione delle regole? Guardi, io ho sentito anche dalle varie telefonate le considerazioni. Dobbiamo fare una valutazione di fondo che ci deve far seguire i nostri ragionamenti, ed è questo. L'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e comunque, indipendentemente da una situazione di crisi che in questo momento è molto più grave sulla crescita e sul lavoro che non finanziaria per quello che riguarda il quadro interno e sociale, e comunque è un paese che nell'ambito dello scontro che purtroppo avviene fra paesi all'interno dell'Europa stessa, e questo è il limite vero dell'Europa, l'Italia è un grande paese, un paese forte. Molte delle manovre che vengono prese sono manovre che penalizzano il nostro paese, fatte per penalizzare il nostro paese, cioè anche tutte queste operazioni sulla possibile debolezza dell'Italia sono sia manovre che seguono alcuni umori che stanno nel mercato finanziario, ma che nascono anche su un attacco fatto sul nostro paese, perché voi capite che se si potesse discutere sul fatto che noi abbiamo un grande rapporto debito pubblico-PIL, ma un bassissimo rapporto debito privato-PIL dimostra che questo paese è un paese che comunque in alcuni fondamentali regge molto nei confronti di altri paesi. Detto quello, quindi uscendo dalla logica finanziaria, a me sembra che questa cosa, questo intervento di stop and go, chiamiamolo in un termine economico, sui pagamenti della pubblica amministrazione sia in questa logica, sia sul fatto di non permettere al nostro paese di fare una manovra, che è una manovra giustissima e molto positiva. L'altro giorno Squinzi ha detto dovrebbe dare 200.000 posti di lavoro, cioè una cosa fortissima per il nostro paese in questo momento, e che freni, dicevo, la possibilità di risolvere un pesante problema interno. Io penso che il nuovo governo, un governo che dovrà nascere in Italia, debba affrontare con forza questo tema in Europa e debba assolutamente iniziare a pagare i debiti della pubblica amministrazione. Fra l'altro, quindi ci starebbe un atto di forza eventualmente, insomma. Fra l'altro, spiegando all'Europa che si sta all'interno dei parametri. Del parametro del 3% e che comunque questa è una manovra che serve, è fondamentale per il futuro del nostro paese. È giusto ridiscutere, dicevo in partenza, ridiscutere in sede europea con gli altri principali paesi alcune scelte di politica di sviluppo che devono diventare scelte del nostro paese, ma di tutta l'Europa. Quindi secondo me è un atto coraggioso, non dico di forza, nel senso di però di porre questo tema come tema prioritario e vincere questa battaglia in Europa deve essere fatta nei prossimi giorni e può essere fatta anche dall'attuale governo. Boccia, brevemente, come la vede lei? No, guardi, non abbiamo alternative. Noi abbiamo la necessità di avere un governo forte che ci consenta di tornare a guidare il processo politico in Europa. L'Italia non c'è niente da fare. È opportuno ricordare e riconoscere che quando siamo riusciti a cambiare la rotta in Europa è accaduto nei primi 3 mesi, 4 mesi del governo Monti, quando tutto il Parlamento gli ha dato forza e quando è stato rispostato il baricentro delle scelte di politica economica in Italia. Potrei ricordare il lavoro fatto dal governo Monti sul fondo salva stati e il via libera ottenuto dopo la minaccia di un veto sulla tassa sulle transazioni finanziarie, che purtroppo poi in Italia non abbiamo declinato nel migliore dei modi ed è una delle cose che dovrà aggiustare il prossimo governo. E quei 3-4 mesi hanno dato ancora una volta la dimostrazione che tenendosi per mano si riesce a cambiare il corso politico in Europa, e poi si è rispenta la luce. E in Europa oggi c'è la possibilità di costruire un fronte con Francia e Spagna e di auspicare un cambio, lo dico senza giri di parole, anche un cambio del colore politico del governo tedesco in autunno. E guardi, non ci sono altre alternative che la democrazia nei modi più solenni. Sì, poi non è detto nemmeno, Boccia, che l'SPD sia insomma così poco allineata dal lato del rigore all'intransigenza. No, insomma. Guardi, dal punto di vista elettorale intero, purtroppo la demagogia domestica non c'è solo in Italia, c'è anche in Germania. Su questo in dubbio. Però le posizioni che assumono in Europa sono posizioni che inevitabilmente possono portarci a ridefinire tutto. Guardi, non nascondiamocelo, o si riparte da una solidarietà che in Europa significa mettere insieme i debiti, i doveri e anche i diritti, oppure imploderemo e saremo tutti corresponsabili di fronte ai nostri figli. Siamo quasi in chiusura e si faccia a questo punto fare una domanda politica. No, non gliela fa Bersani, su, diciamocelo. Guardi, la sorprenderò, ma io oggi sono fiducioso. Lei mi chiederà, ma è... E su che basi le chiederò? Glielo chiedo. Perché sono convinto che i due principali gruppi parlamentari, insomma... Da Mauro abbiamo sentito la posizione di Scelta Civica Monti, io penso alla fine, insomma, senza venir meno al rispetto nei confronti delle persone che militano in quel gruppo, di poter ritenere che daranno il via libera a Bersani, perché è nei fatti. Ma io penso che sia nel PDL che nel Movimento 5 Stelle nelle prossime 36 ore ci sarà una seria discussione interna che metterà tutti di fronte alle responsabilità che hanno di fronte al Paese. Se fallisce Bersani, io non penso che ci possano essere miracoli dopo. Dopo abbiamo una strada ancora più stretta che ci porta in un vicolo cieco dal quale non veniamo più fuori. Per chiudere, Casero, un minuto anche con lei sulla politica. Ha sentito cosa prefigura Boccia? Insomma, ci sarà una discussione interna tra voi, poi lei è deputato, non senatore, però insomma la sua parte politica. L'atteggiamento, anche questa parte della domanda non esiste, cioè nel senso che l'atteggiamento del PD, secondo me, a fronte di questa situazione di pesante crisi del paese è irresponsabile. Il PD deve fare una scelta, deve decidere se e come fare un accordo di governo. Da una parte ha avuto un rifiuto chiaro da parte del Movimento 5 Stelle e cercare singoli parlamentari di questo o di quel movimento politico ci sembra una scelta sbagliata, anche se sarebbe una maggioranza molto ristretta, una maggioranza che non serve in questo momento al Paese. Il Partito Democratico deve scegliere se fare un grande accordo, noi abbiamo detto un governo di concordia nazionale, con chi ci sta, e noi chiediamo chiunque voglia partecipare a questo governo deve partecipare, o se invece preferisce proseguire su questa strada, che è una strada che rischia di portare il Paese veramente contro un muro. Quindi è sbagliato dire che gli altri partiti devono essere responsabili. A fronte di proposte molto responsabili, noi decidiamo e abbiamo deciso di abbandonare le armi e dire vogliamo fare un governo. Siamo quasi in chiusura. Concordia, ci sembra che ci arrivino soluzioni di partitocratiche, di vecchia politica che non esistono in questo momento al Paese. Grazie Casero, grazie a Paolo Corleoni in regia, Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. Chiudiamo con un tweet del collega Marco Valerio Loprete del Foglio, sempre con l'hashtag Maledetta Europa. Citazione di Luigi Einaudi: il problema non è fra l'indipendenza e l'unione, è fra l'esistere uniti e lo scomparire. A domani. Ricordati! Mancano 96 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.